Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. No! No! No! Riapi, sono io che ti rinnego e sono io a maledirti nel nome del demonio. Su, avanti, fammi pure inchiodare alla bara. Non sfuggirai ai miei artigli né a quelli di Satana. Gli elementi scatenati delle tenebre sono in agguato, pronti a colpire. Attento, Griepi! Attento, la mia vendetta ricadrà su di te e sulla tua stirpe. Sì, perché sarà nel sangue dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli che io vivrò la mia vita immortale. E saranno essi a ridarmi la vita che tu... Già vedo le mamme, le nonne, le zie, i poveri papà a tenere le manine sulle orecchie innocenti dei bambini che hanno appena aperto le calzette della Befana, appena, da questa mattina, ma stanno lì a mangiare i dolciumi, a giocare con gli smartphone e con i giochetti elettronici che la cara vecchina ha messo dentro le sue calze bucate. Beh, oggi vogliamo in qualche maniera sfatare questo mito della Befana buona. Quando qua la Befana è buona, come può essere buona una vecchia cattiva col naso adunco che va su una copa di notte e porta i regali nelle sue calze puzzolenti? Pensate i piedi della Befana cosa possono essere, altro che il carbone e il finto formaggio che vendono nelle bancarelle. Lì c'è roba vera e roba nient'altro che gradevole. Beh, avete sentito, questa è la voce della Befana, bambini, rendetevi conto che la Befana è questa. Quando i grandi dicono Befana a una donna, pensano che una donna sia una Befana, non pensano che sia qualcosa di carezzevole, di carino, di buono, ma pensano a qualcosa di molto brutto, di molto cattivo, di molto sgradevole. E quindi oggi ve lo faremo sentire assieme all'amico Giuseppe Sansonna. Giuseppe, buongiorno a tutti. Tu hai dato la voce a questa Befana, chi sì, era? Questa era Barbara Steele nella Maschera del Demonio, film d'esordio di Mario Bava. È una Befana molto sensuale, un po' come Grimilde in Biancaneve, e la regina cattiva, la bellezza della strega arsa viva, perché ciò, quanto c'è di pagano, quanto c'è di perturbante nella donna va eliminato attraverso l'Inquisizione, arso, bruciato, perché minaccia appunto la virtù, la rettitudine di una società composta che si libera dal paganesimo e diventa cattolica. Infatti l'accanimento sul corpo della strega, la ricerca del segno del demonio era quanto di più raffinato manuale di bondage o pratiche sadomaso estreme possono pensare, andando a scrutarlo ovunque. La investigavano nei posti più riposti, avevano degli strumenti di supplizio che in realtà oggi li vendono nei porno shop. Hai centrato un punto, perché appunto se si va nei musei della tortura c'è di sicuro qualcosa di molto vicino a un contortissimo battagliano senso dell'erotismo, questo è certo. Bava lo inserisce anche nel cinema popolare, che era molto più discinto e libero di tanto cinema di oggi. Anche nella Frusta del corpo la strega avrà presa frustate con momenti appunto di whipping, si chiamerebbe oggi nelle categorie del porno, dati in pasto ai cinema popolari, ecco. Quindi tutto c'è questo... altro che le sfumature di grigio, che è un manuale per educande. No. Quel frustino dà delle carezze, lì le fruste portano via la pelle. Ed andavano e venivano portati nei cinema di massa, questo era immerso nella cultura popolare, non era roba per elite o comunque riservata. Sì, però era una cultura popolare, vedi. Vediamo se riusciamo a befanare anche questa nostra deriva che nulla ha di befanesco. Le trilogie delle sfumature varie che mandano in visibilio classi intere di signore è il gioco carezzevole del tormento, della dominazione che riscoprono le signore come antidoto alla noia. In realtà la platea popolare che andava a vedere il film di Bava negli anni 60, erano quelli che a casa probabilmente ancora menavano impunemente le mogli e le staffilate le davano non come gioco per mantenere saldo il rapporto di coppia, ma semplicemente come affermazione della supremazia maschile nella coppia. Le davano esattamente con lo spirito con cui si domina il femminile, no? A colpi di verga, come si faceva appunto nelle famiglie patriarcali. C'è questa dimensione della violenza come modo per sancire l'importanza del padre, la figura del pater familias solido, e quindi tutto ciò che poteva perturbare. Qui abbiamo visto una Barbara Steele che aveva una bellezza anche particolare, non composta, non apollinea, ma molto perturbante, questi occhioni giganteschi, vivaci, guizzanti, medaici, da Medea appunto, che divora e tutto destabilizza tutto ciò che è geometrico e composto e che comunque è la base solida su cui si pensava di poter puntare per la società. Quindi la Befana, abbiamo già capito, è una sorta di messaggera del caos. Almeno così viene vista in coloro che pensavano di essere gli unici depositari della chiave dell'ordine universale. Quindi oggi, bambini, la Befana porta scompiglio, non porta armonia, non porta tenerezza, non porta leggiadria. È qualcosa che inquieta gli adulti, inquieta i padri, inquieta i nonni. Quindi quello che voi trovate in quella calza è qualcosa di solido e concreto. Ciò che è incorporeo, irreale e impalpabile è quello che maggiormente dovete considerare un dono nella vostra stanca famigliola. A tra poco! Melog. Cronache meridiane. Gloria Acida, guarda. Sono le ciglia di Visone, vi dico. Eccole qua. Non dovrebbe andare in giro da sola. Dovrebbe essere conservata sotto una campana di vetro. Chissà come la riducano. L'importante sarebbe toglierla dalle mani di queste matte. Dio mio, sembra un topo uscito dall'acqua. Ai tiranti. Lo dicevo io che non poteva avere gli occhi così belli. Bisogna levarli, gli fanno male allo stomaco. Presto, presto, presto. Lasciate fare a me, aspettate. Giuseppe Sanzon, a chi dovrebbero togliere gli occhi queste Befane? A una Silvana Mangano che qui fa la parte di se stessa, ovvero della diva. Siamo nel 67 e l'episodio La strega bruciata viva del film collettivo Le streghe. La diva balla sensuale, ammirata da tutti gli uomini in questa festa, in questo salotto austriaco, poi cade accasciata, svenuta sul divano e le altre donne, la Calamai e la Girardot, ne approfittano per deturpare la sua bellezza, che ha qualcosa di artificiale, come in ogni diva, ha i tiranti per rendere più sensuale e maliardo lo sguardo. Beh, allora non esisteva il Botox, mettevano degli scotch che tiravano la faccia all'indietro. Esatto, le tolgono il bellissimo cappello e si scoprono questi capelli raccolti in una crocchia. C'è qualcosa dell'artificio della diva. Smontano l'artificio che la rendeva bella. Smontano la diva e la riconducono però comunque continua a piacere agli uomini, e questo crea invidia e gelosia. C'è tutto un gioco. Anche perché Silvana Mangano, al di là degli artifici per avere del viso, anche dal collo alla punta, degli alluci, era notevole, lì c'è poco da smontare. Era notevole ed era anche una donna che, torniamo sempre al concetto che stiamo analizzando stamattina, del femminile, era una donna che era passata ad essere la maggiorata di Reso Amaro, la sensualità carnale, pura, terragna, rurale se vogliamo, la donna sofisticata da Teorema di Pasolini, la diva sottile, algida, quasi raggelante, ecco, una donna che ha saputo evolversi e che ha intercettare diversi immaginari nel corso dei decenni, e questo Visconti lo coglie molto bene. Quindi allora le Befane, in realtà, visto che stiamo cercando di dare un senso concreto e visualizzare la Befana, quando si diceva vecchia Befana, una donna, molte volte ci si rivolgeva semplicemente a una 35enne nella vulgata popolare arcaica, vecchia Befana, perché non si era più giovani a 35 anni. Oggi nemmeno una 60enne si direbbe vecchia Befana, è scorrettissimo. Quindi la Befana rimane, diciamo, la donna che nel giro delle donne è invidiosa della bellezza, leggiadria, della leggerezza delle altre donne. Sì, poi la bruttezza nel femminile è spesso stata colpevole, o rimanere zitelle era un segno di colpevolezza, insomma, era una da stigmatizzare, quindi in questo c'era un insulto legato a una particolare anche condizione sociale che era disdicevole, ecco, questo è sicuro. Quindi la Befana è, diciamo, nella lettura delle donne accasate, tranquille, placide, che fanno parte, diciamo, della società riconosciuta, la zitella. Befana in quanto mette a repentaglio la sicurezza dei loro matrimoni, quindi è Befana, va bruciata, ha tutte le caratteristiche della strega, è una strega, è una rovina famiglia. Dal punto di vista opposto, la Befana è sotto, uno dice, la Befana di mia moglie, la Befana è la matrona che mette in un sacello chiuso a chiave con 7 lucchetti gli attributi del marito, quindi li tiene da parte per farli ammuffire. Esatto, poi deriva da Epifania, e l'Epifania invece è quella della donna, del femminile, che appare e si disvela ed è sempre un mistero. Vi confesso che avere per compagno una strega non è una cosa semplice. Porca miseria, stiamo volando su una scopa. Con lei ne succedono di tutti i colori, tanto è vero che ne volevamo fare un film in bianco e nero. Poi invece ci abbiamo ripensato e l'abbiamo fatto come nella vita, a colori. Ecco, qui mi soccorrerai con qualche dato certo, Sanzon, però visto che l'immaginario della moglie è una strega, è un altro sogno allucinatorio, avere la moglie con i superpoteri, che con la forza dell'irrazionale ti risolve le situazioni concrete in cui tu, maschio, razionale, ponderato, nel tuo pieno ruolo, non riesci comunque a far fronte. Qui siamo esattamente 20 anni dopo La maschera del demonio e c'è ancora una volta in campo una strega, che però è Eleonora Giorgi. Siamo nel 1980, siamo nel mondo un po' piano, rassicurante, di Castellano e Pipolo. Il protagonista maschile è l'antierotico Renato Pozzetto, questa faccia eterna, comica, da bamboccione assonnato, se vuoi con scarsa virilità apparente, perché quello era, comunicava un'infantilità del volto, mentre la Giorgi in quel momento era nel pieno del suo fulgore sensuale. Beh, dopo Appassionata, il film che lanciò lei e la Muti, che erano un dentista che faceva anestesia alle amiche delle figlie che fingevano di andare in anestesia e quindi entrare in una sorta di zona di estrema lussuria, alla fine finisce la figlia va con il padre, una cosa orripilante, ma allora mi ricordo ci costò più di una diottria. Metafora, se la perversione che poteva, o la grande sensualità, il grande appeal erotico che poteva comunicare la Giorgi, e appunto la ricolloca nel ruolo di strega, ma è una strega che nel corso del film verrà normalizzata, diventerà appunto esattamente la moglie di cui ha bisogno Pozzetto. Quindi siamo distantissimi da Barbara Steele perturbante. Comunque in Italia c'è bisogno di normalizzare, c'è bisogno che l'uomo medio con le fattezze, appunto, che ecco, lui può dire Befana la donna, ma lui cioè, fisicamente è anche abbastanza impresentabile, come abbiamo detto. Beh, più una volte. Una sorta di eunuco, non so, di tutte nelle rappresentazioni medievali. Sì. Di Bosch potrebbe essere uno di quella sorta di quei follettoni che se stanno lì capponeschi diciamo, sì, è una figura capponata chiaramente, cioè. Mentre lei tutt'altro, e però comunque l'importante è che alla fine il diavolo è Helmut Berger, siamo sempre dal mondo di Visconti e disceso nel mondo di Castellano e Pipolo in questa spirale senza fondo, e tutto però è fiabesco, ma di una fiaba composita che è tutto normalizza, tutto appiana. Beh, è tipico degli anni Ottanta, gli anni dell'edonismo, gli anni che in fondo sembrano che i problemi siano tutti livellati nel consumo, in cui la televisione mostra questi modelli vincenti, le soap americane sprezzanti, con donne belle ma perfide, con uomini vincenti ma crudeli, e via dicendo. Quindi anche la strega, invece di essere bruciata, impalata, fatta a pezzi, va normalizzata, stando assieme al buon farloccone figlio di mamma diventa una brava massaia, quindi una madre di famiglia, e quindi siamo tutti felici. Esatto, e quindi tutto ciò che è fuga, tutto ciò che è eros, tutto ciò che è distruzione e però è anche vita, viene allontanato, viene gradualmente rimosso fino ai giorni nostri. Fino ad arrivare finalmente all'apoteosi, in una fase precedente a quella attuale di un noto attore della commedia italiana, della Befana intesa come degenerazione dell'immagine muliebre della moglie, della sposa, della madre dei figli, la befanaggine vista dal punto di vista di un altrettanto orrendo tipico maschio medio italiano. Lo sai quanti anni ho? Beh, insomma, adesso così su è difficile. 318. Però io al massimo gliene avrei dati 210, 215. Fa lo spiritoso tu. Dal 1798 io sono stata bruciata due volte. Una volta a Castel Sant'Angelo e un'altra a Campo dei Fiori. Io dovrei andare perché ho... No, sta fermo, non ti muovere. No, chi si muove? Guarda che non sono matta, T'ho fatto chiamare perché ho sentito la tua voce dalla strada e ti volevo parlare. Non ci credi che sono una strega? Io ho conosciuto il diavolo, si è innamorato di me e mi ha posseduta analmente e mi ha dato i poteri magici. Adesso che sto per morire vorrei che tu potessi seguire la mia strada. Devo dire che osavano molto allora, oggi una cosa del genere sarebbe inammissibile, e non era ancora, o era stato già sdoganato da Ultimo Tango a Parigi, l'innominabile, sì, rapporto Vasnefandum per Vasnefandum, che provoca naturalmente ogni suggello di patto demoniaco. Sì, solo che questa voce meravigliosa non è di Maria Schneider, della burrosa Maria, ma è di una grandissima Paola Borboni, che derivando dalle assi del palcoscenico nobile discende nel pecoreccio degli anni Ottanta e al cospetto di Johnny Dorelli, che qui fa un magaccio smagato. Chissà chi se lo ricorda Johnny Dorelli, perché bisogna avere almeno una cinquantina d'anni. Sì. Sì, sì, però all'epoca in questo cinema pecoreccio lui era comunque il meno vitale, il meno vicino, anche lì molto spento, se vogliamo, al cospetto di una gigantesca Paola Borboni che qui fa la strega, appunto, pluricentenaria, che cerca di ammaestrarlo attraverso la sensualità, baci e altre profusioni, alle virtù magiche, alle sapienze magiche, e il film si evolve. Quindi ritorniamo in un copione in cui il povero sprovveduto parrocchiale figlio di mamma, perché questo in fondo è sempre stato, ha fatto anche la parte di un prete in telefilm, era il personaggio chiave della televisione rassicurante, il maestro Libro Cuore, era anche un ottimo cantante, ha una bellissima voce, ma era molto noto anche al cinema popolare, capito, come faccia da bravo ragazzo, eterno bravo ragazzo, e attentato comunque da una Befana che in realtà questo era una sorta di ultimo colpo di una camminatrice ardita lungo i sentieri della lussuria. Mi dica, signora, quali sono i suoi passatempi? La mia unica passione è il gioco delle carte. Io e il mio autista conosciamo le carte di quasi tutti i paesi del mondo. E qual è il suo gioco preferito? È un gioco italiano, si chiama lo scopone scientifico. Ah, è un gioco, credo, molto antico. Dammi il vestito nero e il suo spandito. Che arriva, Dave? Sì, stasera giochiamo, vabbè. Te do pure le scarpe, così te presenti bene. Bravo, quelle a punta da cerimonia. Ciao, zio Sva, grazie, eh. Ah, onde vai col vestito mio? Domani c'ho il funerale. E come mi presento stasera in villa dalla vecchia? Domani te lo riporto. Ah, Peppi, non perde sto occasione. Dai e sotto, levi in sacco dei milioni a sta vecchia. Levi in sacco dei milioni a sta vecchia. Ah, Peppi, vai a vecchia. Ecco, qui entriamo nel dominio dell'indicibile befanità. È una befanità che tutti percepiscono, tutti nel loro intimo coltivano, ma non si può dire. È la Befana importante, la Befana ricca. E qui si ricollega al discorso che facevamo prima. Per avere una vera cattiva al 100% totale, indiscutibile, bisogna avere un'americana, una straniera, perché non poteva essere appunto la borboniera italiana. Comunque rientrava in una sorta di maternità. Qui abbiamo la regina cattiva per eccellenza, che viene dalle Americhe, viene da lontano, viene in pieno piano Marshall a elargire elemosina ai borgatari italiani, però attraverso il perversissimo gioco che non gli darà neanche una lira, ovvero giocare al gatto col topo, lei il gatto, con lo scopone scientifico, con questi giochi di carte in cui i borgatari credono di poter attingere una piccola goccia del suo oceanico patrimonio, ma rimarranno sempre con un palmo di naso, frustrati in eterno, finché la figlia di piccolina non risolverà, appunto. Ecco, il rapporto, non è citato l'attrice però, perché Bette Davis. Sì, bene, non al nostro pubblico. Non c'è meravigliosa, Bette Davis con Alberto Sordi, la contrapposizione è fortissima, sono due mondi a confronto antitetici. Lei algida, per nulla femminile, di una crudeltà raffinatissima, data anche dal potere d'acquisto illimitato che ha rispetto al poveraccio che finge di divertirla, di giocare per sfizio, ma in realtà si gioca molto di più, si gioca la credibilità, la leadership all'interno del suo gruppo di baraccati, ma molto di più anche la sopravvivenza. Esatto, Bette Davis si portava dietro di sé tutti i film stratificati del suo passato, il Che fine ha fatto Baby Jane. Ecco, lei era davvero una donna libera, disinibita, una diva che usava una bellezza molto da giovane, molto contorta, non lineare, non limpida, e molto lasciva anche. E questo era funzionale, era un cinema vitale come quello americano, che aveva meno problemi dal punto di vista autoriale a porsi come con donne perverse. Ecco, questo è il dato. E quindi ci arriva vecchia nel 72 a fare il film con Comencini e può circuire nella sua ragnatela Sordi e la Mangano. Beh, qualcosa in cambio avrà voluto, pur di recitare in un film in cui la chiamavano la vecchia. Pensa te, va a far la parte la vecchia cattiva, e è vecchia cattiva. In quegli anni prendevano soldi e sentasse gli americani, quindi era già una cosa molto interessante per loro. No, a me parlo dal punto di vista proprio artistico. No. Se è scesa questo compromesso, lei, poi finché ha fatto, di andare a far la vecchia cattiva, era consapevole che il suo divertimento è essere una vecchia cattiva. Ma sai, poi da anziana Hollywood ti emargina. Lei ha fatto spesso film sulla scia di Che fine ha fatto Baby Jane. Beh, Baby Jane era un film atroce, di un'ex ragazza prodigio, in un rapporto perversissimo, una sorella sulla sedia a rotelle, una cosa terrificante, uno film sbudellamento geniale, viscerale, film meraviglioso, sull'orrore dell'amore fraterno, una cosa bellissima, un film meraviglioso. E qui invece va a prendersi quel poveraccio, toglie quel tozzo di panno che gli ho fatto annusare, che si dividono in 50. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Su, non a salirmi, buona, buona, su. Dai, sali sull'albero. Ma non capisci, non capisci. Tu sei la donna scimmia, io ti ho catturato in Africa. Sei allo stato selvaggio, hai capito? Allo stato selvaggio. Tu devi cercare di assalirmi quando io con la frusta faccio così, oh! Così, capito? Poi cerchi di saltarmi addosso e infine sali sull'albero. Sì, ma io sto facendo il minestrone. Ma cosa me ne frega del minestrone? Oh! È uno spettacolo questo qui. Dobbiamo montare un numero. Il pubblico paga e vuol vedere delle cose. Non può accontentarsi di guardarti in faccia e basta. Tu devi cercare di imparare, di arrampicarti, di far vedere, non so, che sei una specie di Tarzan. Ah, Antonio! Ma soltanto il minestrone allora sai fare. Ammazzali! Qui è una rappresentazione befanesca, crudele ma allo stesso tempo surreale, quasi pop. Nell'epoca in cui imperversa la tricofobia assoluta, in cui le donne hanno paura anche di un peletto superfluo, in cui gli uomini si depilano tutto, da il pomo d'Adamo all'unghia incarnita, devo dire, la rappresentazione della Befana come una donna pelosissima e scimmiesca aveva qualcosa che già da allora sconvolgeva tutti gli schemi futuri. Solo il genio sulfureo di Marco Ferreri nel 64 poteva creare la donna scimmia. E com'è la storia? Racconta la storia. C'è questo truffatore da quattro soldi che è il signor Focaccia, che è Ugo Tognazzi, che vive nella Duchesca a Napoli, vaga per le sue piccole truffe, finisce in un convento e trova qui il caso umano, appunto curato dalle suore, di questa splendida attrice che è Annie Girardot, vera diva di quegli anni, attrice sublime con questi occhi vivi, e quindi lì c'è l'operazione di con Ferreri con una ipertricosi vera, cioè coperta di peli. Il genio di Ferreri è di rendere sensuale questa donna coperta di peli, rendere credibile, che è veramente ributtante a vederlo. Però è ributtante a vedersi, ma sotto nello sguardo c'è una appeal, rimane una però forza. Lo sai che era bella Annie Girardot, grazie. Appunto, però questo cortocircuito è perverso e è affascinante, perché poi Tognazzi è attratto dalla possibilità di guadagno, perché Tognazzi, il personaggio di Tognazzi, non ha nulla da perdere, è un truffatore che intuisce che il caso è bizzarro. Un po' come l'uomo elefante, la donna scimmia, era un fenomeno, esatto, da baraccone. Esatto, è un film linciano per certi aspetti, cioè quanto di Ferreri è vicino al mondo di Lynch, e quindi intuisce quanto può essere sfruttata come fenomeno da portare in giro. Però gradualmente il rapporto diventa sempre più ambiguo, perverso, perché Tognazzi, come ben sappiamo, era l'unico comico, l'unico corpo comico che mantenesse una visceralità e la credibilità nell'avere rapporti sessuali. Tutti erano più o meno sessuati, se ne immaginiamo, lo stesso Sordi. Sordi era impossibile pensarlo sul pezzo, anche se poi ogni tanto nel Marchese del Grillo, quando fa il carbonaro che si fa la sorella del Marchese, via dicendo, ma era un po' difficile pensarlo. Tognazzi lo immaginavi sempre sul pezzo, sempre dentro una meccanica del piacere. Lo stesso Mastroianni, se ci pensi bene, il bello del cinema italiano, però è il bello Antonio per sempre. Sì, sì, è sospeso questa voce di panna, questa... invece Tognazzi è la visceralità sudata. Con la panza, un uomo di panza e quindi... De sostanza. E de sostanza, naturalmente. Padano, Terragno, pure lui, dentro, inserito appunto la tragedia dell'uomo ridicolo, c'è, cioè, questo odore di salumi, questa nebbia padana, però questa voglia. Quindi di... è l'unico che ha lo stomaco può di farsi la pelosona. È credibile in quello, cioè Ferreri capisce che nell'attrazione può essere reso credibile la sua voglia di sesso con la Girardot ipertricotica. E poi c'è il cinismo, poi fu tagliato, fu sospeso il finale perché era eccessivo. Com'era il finale? Perché morivano e poi li faceva imbalsamare, li esponeva da morti, quindi c'era l'ultimo tabù violato da Ferreri, che quindi, però se vogliamo, quanto anticipava oggi il tipo di televisione dominante degli ultimi anni, con, certo, la voglia di esporre mostri e di vendere, appunto. Ma è stato mai girato il secondo, il finale, quello lì? Sì, no, fu girato, però ma nessuno l'ha visto. Fu tagliato perché appunto in fase di censura non si poteva appunto avere. Addirittura invece c'era un finale che è andato solo in Francia, in cui sposandosi la Girardot perdeva tutti i peli e Tognazzi era costretto a diventare un bravo padre di famiglia, quindi mettersi su a lavorare seriamente. Qui c'è il massimo dell'orrendo lieto fine che Ferreri pensa, lo sto pensando, Freaks, notissimo film, sì, maledetto Todd Browning, anche lì c'è la storia di una grandissima, di un artista di cinema che prende per in giro la società dei mostri e viene punita alla fine. Nella parte ufficiale c'è soltanto l'uomo verme che striscia col coltello fra i denti insieme ai nanetti e tutte le altre, e non si capisce che succede. Ma il finale vero, che poi si è visto, è che la trasformano in donna gallina, sì. Gli amputano braccia, gambe e la mettono in una specie di pollaietto esposto in cui lei, gli hanno tagliato anche la lingua probabilmente, fa la donna gallina, una cosa terribile. One of Us, uno di noi, diventa anche lei inserita in questo... Gabble, sei una di noi, esatto. Questo è un mito. Film degli anni 30, se ci degli pensi. Anni 30, ma ancora ci fa riflettere. Inseguiamo un'assassina brutta e vecchia e ne troviamo un'altra bella e giovane. Lei è Stella Dexter. Sì, ebbene? Pardon, signora, deve esserci un equivoco. Mi scusi tanto, un deplorevole equivoco. È lei, ispettore? È lei, guardi. Non posso sbagliare, è proprio lei. E stai dicendo, Dodò, quella non è Stella Dexter. Ma allora chi sa? Rispondi. Qua è un altro dei paradossi befaneschi che hanno molto segnato la mia generazione di sessantenne. Fa parte dei cosiddetti fumetti noir, almeno l'ispirazione, quelli che i nostri genitori leggevano con l'accento finale, diabolique, satanique. In realtà era diabolique e satanique, in questo caso era qualcosa di molto diverso, era satanique, una sorta di personaggio di questi fumetti sexy horror, che aveva la caratteristica di essere una bellissima donna che in realtà però se non prendeva cos'è una pozione cos'è. Lei doveva prendere un filtro costruito da lei stessa. Lei è una donna, una ragazza mostruosa con due sorelle bellissime. Sì, una specie donna teschia, orripilante. Una Cenerentola al contrario, un mostro intelligentissimo con le due sorelle bellissime che prende questo filtro e diventa bella. E da lì la sua vendetta, la sua ritorsione nei confronti del mondo, delle donne, degli uomini, che circuisce per denaro, li conduce alla follia, poi li ammazza anche. Quindi questo angelo della vendetta, la Abel Ferrara, ante litteram, nel 64, il film di Vivarelli, la trasposizione cinematografica del fumetto di Magnus e Bunker. Le stesse di Alan Ford, stesse, che è paradossale. E infatti c'è una contiguità di quel mondo, cioè i maschi anche lì sono resi però nel loro essere grottesco, nel loro essere suino, nel cercare di concupire attraverso il denaro, attraverso profferte danarose, attraverso profferte di potere, punite dalla violenza assassina di Satani. E lei è proprio Befana, la sua versione naturale, senza filtro, mostruosa, in camice bianco, col volto deturpato. Poi l'attrice Magda Konopka, che è di una bellezza appunto lancinante. Ecco, questa sensualità di quegli anni si è anche un po' persa, se vuoi, nel lavoro sulle attrici che c'è attualmente, ecco, anche nel cinema popolare, ma anche in quello colto. Abbiamo parlato prima della Mangano, le donne avevano una sensualità lancinante, prorompente, che bucava a piene viscere, insomma, veniva proposta la sensualità, gli sguardi, i volti, i corpi del film. Beh, sai, adesso non vorrei sembrare una sorta di signor retro che non capisce, non comprende quelle che sono le ultime frontiere della cosmesi estrema femminile, ma oggi la maggior parte del divismo, io mi ho fatto ridere, ho visto una pubblicità, la Bellucci dice uso un lifting naturale, non il, cioè mi fa morire da ridere se c'è qualcosa di incredibilmente artificiale, è uno simoro, è il volto la Bellucci diceva che in realtà usava un lifting naturale a base di spremuta di carota, non so bene di cosa, adesso non ho capito, qualcosa nulla avesse a che fare con l'intervento chirurgico. Oggi le cosiddette belle, che vengono definite tali da un sistema che tali le definisce, che in assoluto non c'è mai il bambino del re nudo che dice ma sulla bella di che, hanno una sorta di aspetto putrefattivo, c'è cioè una conservazione che sembra quasi opera di un restauratore di cadaveri, che fa sì che questa bellezza abbia un aspetto probabilmente interessante sul set cinematografico, con le luci, con tutti gli artifici del cinema, una volta prese per strada sono cadaveri che camminano. Sì, ma diciamo che il cinema poi si è molto rarefatto in Italia, si fanno pochi film rispetto al passato, però qui parliamo di cinema popolare, di cinema di cassette se vogliamo, eppure proponeva dive di grande, queste amazzoni reali, di grande sensualità, di impatto, e che avevano anche questa libertà e che comunicavano anche una sorta di autonomia. Stiamo parlando appunto di un cinema che non si poneva obiettivi autoriali, però raccontava donne che vivevano visceralmente e violentemente la propria autonomia, come satanica appunto. è che oggi in realtà la categoria della befanaggine è rappresentata in maniera talmente estesa e sotto l'etichetta comunque di donna di successo, donna bella, donna interessante, di donna vivace, via dicendo, che è un po' difficile per i nostri poveri innocenti bambini che stanno lì impietriti con la calzetta in mano e con il giocherello, col pezzettino di carbone alla menta, dire: ma cosa stanno dicendo questi due? Ma la Befana, questa cara vecchietta, qui ho lasciato il piattino con le noci, i mandarini, perché li potesse mangiare, e l'ho trovati mangiati. Non sapranno mai chi realmente ha usufruito di quel loro misero, tenero e in fondo povero pasto, ma in realtà sanno esattamente, ora si guarderanno lucidamente intorno, chi sono le vere Befane della loro vita e soprattutto quelle che saranno le Befane della loro fulgida, ci auguriamo, prossima vita. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Senta, è maschio. Chico, beh, certo che è maschio, non vede? C'ho la pancia a punta. Signorina, le devo dare una grande notizia. Cioè? Ho riflettuto molto. Ho deciso di riconoscere il bambino. Ma come? Ma come eravamo d'accordo che lei mi avrebbe dato i pippi, i cinque pippi e poi... Io no! Signorina, lei non dovrà più fuggire, non dovrà più nascondersi. Pensi, ho pensato anche a nome. Ah, sì? Lo chiamerò Ugo II. Guardi Leone. Me coglioni. Cioè? No, niente, un altro nome. Fatto, l'importante è che lei mi dia i pippi. No, no. Ecco, in questa rassegna di Befane che inconsapevolmente noi conosciamo, visitiamo, frequentiamo, ma forse non come tale classifichiamo, avendo mai questo stereotipo della cara vecchietta che viaggia sulla scopa, non può esserci il personaggio che mirabilmente impersonifica Anna Mazzamauro, della signorina Silvani. Ma non tanto la signorina Silvani, è le tante signorine Silvani. Le fighe pettinate d'ufficio, che in realtà sono dei mostri, ma per lo squallore dei loro colleghi comunque sono delle regine. Ma non perché ci sia una colpa nell'essere mostro, né sia colpa nel pettinarsi, perché in fondo c'è una crudeltà radicale nell'approfittarsi di questi poveri uomini. In questo caso la Silvani si finge incinta di Fantozzi, si fa dare i pippi che sono i milioni, 5 milioni, va in clinica con una pancia finta e poi si fa un'operazione estetica, esce completamente bombata con le labbra canotto e via dicendo. Come archetipo la signorina Silvani nasce come Miss Quarto Piano, quindi di un contesto ristretto in cui può risaltare rispetto ai vecchietti che giocano a battaglia navale. Sì, ha un certo appeal perché fisicamente aveva delle procacità che potranno far pensare a quelle stanche virilità nascoste nelle grisaglie che potessero avere ancora qualche palpito, ma era volutamente e drasticamente anche nel trucco orripilante di viso, come una Befana appunto. Era forzata, doveva apparire in questo mondo di modelli facis, come dicevi tu, di gente vestita così, ma e quindi in quel contesto spiccava. La sua perfidia era quella di cedere alle grazie del Don Giovanni terrificante del contesto, ovvero di Calboni. Ecco appunto, il maschio dominante di un contesto terribile era quello, quindi e lei giocava crudelmente cedendo le sue grazie a lui e non a Fantozzi, a un Fantozzi adorante che invece verrà in questi ultimi film di Fantozzi della decadenza. Fantozzi verrà ricompensato con la dazione, l'ultima dazione finale, con lei che finalmente gli cede e si innamora della sua prorompente virilità. Ecco, quando dice cosa mi sono persa in questi anni, Fantozzi me lo dì, quindi il momento di umanità ce l'ha in quanto Fantozzi. Per merito della bomba che gli dà il barista, non per meriti suoi, ci mette anche una bomba a mano, una sorta di afrodisia, ecco, riesce finalmente a placare la Befana, quindi c'è un'altra normalizzazione di Befana, diventa l'amante perfetta che sempre avrebbe voluto, soggiacente, geisha, lo trascina Fantozzi, Melodì. Un'altra pina, raddoppia la pina, a seguito però sempre del filtro magico, l'artificio, la bomba che gli dà il barista e permette che quei grassi sumi sotto canottierali con mutande ascellari potessero finalmente partorire quella sorta di spada di fuoco che in realtà nemmeno un cerino era paragonabile. Ecco, Ali, te bozzi n'ha ammazzata. Chi è? Lo so io chi è. Brutta! Svegliate! Quante volte devo dire che qui c'è devi a dormire? E chi è? Fussa via, brutta strega! Occhio, non me la dai! Fussa via! I mortacci due, se ti do occhita brutto. Pulsa via. Vattene via. Ma che fai? Perché, poverina? Sì, poverina. Pulsa via, una stregaccia. Che fa le fatture, fa. Ma che strega? Ah, non ci credi? Ah, tu non ci credi alle streghe? Beh, vedi, quella è una strega. Oh, ecco, finalmente il pregiudizio radicato, viscerale, nei confronti della donna che poi diventa Befana, qui viene espresso al Marchese del Grillo, che gentiluomo di sua santità, senz'altro, però la vecchia che gli manda l'anatema, infatti, perfettamente consapevole che l'unico suo potere è che tutti continuassero a credere che è una strega, finché strega si salva, capito? E viene buttata via, allontanata, discriminata, non esiste. Nella Roma alchemica, papalina, ottocentesca del Marchese del Grillo, Sordi, appunto questo nobilastro in vena di scherzi, che si trova davanti questa vecchia bambina, perché è una bambina ma semicalva, con questo viso, questo corpo sinistro, che anche davanti ai dobloni arroventati, appunto, li addenta e se li porta via, ecco. C'era questo, era l'emersione del fiabesco, dell'irrazionale nella vita ottocentesca immaginata da Monicelli e dipinta appunto in questo mondo anche belliano, in cui c'era la beffa continua e un cinismo romano, che sono appunto un popolo sempre allegro, i romani, perché per essere tristi bisogna avere anche un po' di speranza, diceva Stendhal. Invece appunto il Marchese del Grillo non ne ha nessuna. Poi, paradosso, poi arrivarono i francesi, portarono le attrici donne quando loro a teatro andavano e vedevano i castrati. Esatto, i farinelli, appunto c'era questa dimensione del teatro precluso alle donne, appunto, anche shakespearianamente era così, anche i ruoli maschili erano fatti, anche i ruoli femminili erano fatti da maschi, perché appunto la donna veniva tenuta fuori dal mistero del teatro, perché era un mistero forse troppo più grande. Beh, ma c'è la famosa scena quando appare poi l'attrice di cui si innamorerà, lui avrà una storia e tutto, gli stessi popolani gli tirano i cavolfiori, la frutta marcia, non sopportando una donna sul palcoscenico. Era qualcosa che metteva in crisi l'ordine cosmico, che non ci fosse un castrato ma una donna vera. Ancora una volta appunto i francesi erano all'avanguardia, e noi siamo sempre stati perturbati per diversi motivi legati alla nostra appunto cultura cattolica da questa emersione del pagano. La donna conserva il pagano, il naturale, l'alchemico, l'ancestrale, e quindi perturba. E beh, colei che è soggetta alle regole mensili e quindi comunque a dei momenti di impurità, perché la natura la condiziona appunto tale. Queste erano le condizioni per cui la donna è tenuta lontana, e poi era qualcosa di indicibile, di incredibile, di inimmaginabile, una sorta di vortice in cui ci si perdeva. Comunque era qualcosa che il demonio usava per tentare l'uomo, quindi era meglio prendere uomini, tagliargli gli attributi e far finta facessero donne. Poi non è che è cambiato molto rispetto ai gusti correnti oggi, in fondo il metrosexual, l'immaginario erotico generale sono uomini a cui si tagliano gli attributi e fanno le donne, esattamente questo. Quindi siamo tornati a una visione ipermoderna e politicamente correttissima, perfettamente in linea con la Roma papalina dell'ultimo papa prima che arrivassero i francesi. Serghina! Serghina! Serghina! Serghina! La rumba, la rumba! Ecco, qui! Sai che la Saraghina è il diavolo. Non lo sapevo proprio. Vedi che però è una convinzione generale. Cambia poco cambiando la latitudine, perché vale per la Roma e il Marchese del Grillo, vale per il meridione d'Italia, vale anche in fondo per la Romagna di Fellini. Sì, vale per la Rimini degli anni 30, in cui questi bambini seminariali 8 e mezzo, sì, siamo in 8 e mezzo del 63, e Fellini ricorda se stesso bambino andare sulla spiaggia a far ballare la rumba alla Saraghina, che è questa donna mostruosa ma con un lacerto di sensualità nello sguardo, negli occhi bistrati, in questi movimenti osceni. È la tipica prostituta rurale, capito? Sì. A livello quasi animalesco di gestione, però con una sorta di ferina sensualità che a fondo funzionava. Come una dea pagana, sì, che emergeva dalle acque, e loro gli facevano ballare la rumba e la contemplazione era punita nel confessionale. L'immaginario rurale e rupestre molto meglio di una capra o di una gallina, tutto sommato, però ancora molto lontana da quello che è un livello civilizzato di femmine, tutt'altra cosa. Però quando ti è tutto precluso, anche quello diventa estasi, anche negli occhi bambini di questi ragazzi. Cioè, vuoi citare il proverbio? No, c'è un proverbio indicibile a questo punto di vista. Sigla tutte le pagine, una pura formalità. Firma, Cocca. Perché non firmi? È anche morta. Signore, è pronto in tavola. Il commendatore si ferma. Cosa fai, cretinetti? Mangi a casa? Ma no, lo sai che il mercoledì, venerdì e il sabato mangi al circolo industriale. Ecco, bravo, fatela mettere da uno di quegli industriali la firma. E poi me lo fai conoscere. Sì, cara, te lo farò conoscere, perché a Milano c'è ancora qualcuno che ha fiducia nelle mie capacità. Che ne pensi tu e mammetta tua? Serafino il barolo! Come mai? Ieri ce n'erano ancora due bottiglie. E beh, signora, sono sparite. Io non capisco, in questa casa sparisce tutto. Oggi il barolo, ieri la mia lacca per le unghie che ho portato da Parigi. E quel bell'orologio a cucù della Val Gardena. Non farmi pensare all'orologio a cucù che devi... Ecco, qui è terribile. Qui nella figura indubbia della Befana, però risulta patetico, terribile, il compagno della Befana. Questa sorta di gnomo assessuato. Fino a un certo punto, poi, perché le cose che spariscono da casa della moglie andavano a casa dell'amante, in cui c'erano dei genitori avidissimi, quindi rubacchiava in casa per fornire la casa dell'amante di piccoli beni di consumo che lui non poteva permettersi. Ecco, contestualizziamo questa Befana. Siamo all'alba del boom, nel 59, il film è Il Vedovo di Dino Risi, e qui c'è il mammone Sordi, incapace, inadeguato al boom, inadeguato all'industrializzazione, che invece trova una Befana ipermoderna, capacissima, in realtà molto simpatica, anche molto tagliente, come quel genio che è Franca Valeri, di gestire il mondo che sta cambiando da vincente e tenersi questo bamboccione a fianco, incapace, che solo per deriderlo fondamentalmente, con un sadismo rovesciato. Ecco, qui non è panica, qui è razionale. La Befana, se vogliamo, ci sia concesso, è la razionalità industriale, la capacità pragmatica che si scontra contro l'inadeguatezza un po', appunto, fifonesca, incapace del ragazzone eterno pieno di sogni un po' stupidotti, infantili e non pragmatici, non razionali, non adeguati a un mondo che sta cambiando e che si sta rapidamente evolvendo. Questo incontro e scontro poi porta il vedovo, per l'appunto Sordi, a una voglia di uccidere la strega, voglia di liberarsi della strega in una sorta di rito, ma di rito incapace, maldestro, da pre-fratelli Coen, se vogliamo, appunto, siamo in l'incapacità di diventare assassini ma non essere neanche capaci di quello, l'incapacità del delitto. C'è stata di questo film, solo per citarla in conclusione e fare un piccolo parallelo, una versione moderna in cui l'immagine della strega è fatta dal Litizzetto. Solo una cosa, la firma sulla fideiussione non te la metto. Vabbè, è tardissimo, io devo andare. Grazie Arturo, noi due ci vediamo in fondazione oggi pomeriggio, e cambiati, che vestito così sembri un agente immobiliare. Vediamo fra queste due streghe, visto che è la figura più vicina all'assetto familiare dei poveri bambini che stanno lì con il toroncino scartato, perplessi, davanti alla radio. Ora, la Valeria era una vera strega, non ci sono santi, nella sua algida rappresentare il potere. La Litizzetto non ci riesce, anche perché forse troppo infazzita nelle sue inflazionate presenze televisive, ci riesce un po' meno. Io trovo una differenza di spessore attoriale, sinceramente. La Valeri è un genio della scena, che ha saputo cogliere sfumature anche del cambiamento della figura femminile. La Litizzetto da anni ripropone questa versione un po' casermistica della donna perennemente infogliata e volgare, che non fa brutta ma satanata, ecco, che a me annoia un pochettino, sinceramente, mentre la Valeri non mi annoiava. Penso mai. Penso che si gestisce anche il suo aspetto, che si capisce nelle righe, di rapporto extraconiugale, però con una sorta lo gestisce da vera padrona, da vera persona che non gliene importa niente nulla, una vera strega. No, la Valeri io la trovo appunto invece capace di dare al suo aspetto, anche non esteticamente non trascendentale, una abilità, una genialità sensualissima. Bambini, rassicuratevi, le streghe non esistono. Avete una bella mamma, una gentile nonna, delle care zie, un meraviglioso papà. Noi abbiamo semplicemente parlato di incubi che hanno, ahimè, funestato le nostre disgraziate vite. State tranquilli, la Befana esiste, la Befana è buona. Certo.